Punto e a capo. Una settimana di attualità di Gigi Donelli. Eccoci qua, cari ascoltatori, anche questa settimana si avvia a conclusione. E che settimana! Settimana di notizie dal mondo, di fatti anche clamorosi e violenti che ci hanno catturato davvero l'attenzione, rivolgendoci alla Francia a metà settimana, ma naturalmente una settimana in cui si compie un passaggio molto importante, molto discusso, come non può che essere una riforma del mercato del lavoro. Ecco, da dove ripartire? Direi dall'impegno che il primo ministro Mario Monti ha assunto ieri pomeriggio, dicendo: eviteremo abusi sui licenziamenti economici. Dunque l'articolo 18 al centro di tutte le controversie, di gran parte delle controversie su questo tema delicatissimo. Noi naturalmente ripartiamo da qui tra qualche momento, ma come sempre faremo il bilancio, un percorso radiofonico della settimana raccontata attraverso la radio. Punto e a capo. Eccoci qua, ancora un buongiorno da Gigi Donelli al microfono, da Carmelo Lauricella in regia. Ricordate, giovedì 22 alle ore 11:27, l'assalto dopo 32 ore di assedio. Merà si lancia dalla finestra, muore colpito alla testa da un colpo sparato da un cecchino del gruppo RAID, l'unità di assedio della polizia francese che ha gestito il blitz. Naturalmente torneremo su questa storia scioccante, su questa storia che ha anche riaperto dopo qualche tempo un dibattito sulle cellule, sul proselitismo di Al-Qaeda in Europa. Ma come vi ho anticipato, adesso partiamo dal lavoro e lo facciamo sentendo un primo breve contributo del ministro Fornero lunedì scorso, proprio qui nel palazzo del Sole 24 Ore a Milano, durante un convegno. Sentite. Io credo con molta sincerità che la riforma raggiunta con il consenso delle parti sociali abbia un valore aggiunto, che la stessa riforma approvata senza il consenso delle parti sociali non ha. Questo il punto. Peraltro il governo e il premier Monti era stato esplicito su questo aspetto: ricercare il consenso delle parti sociali ma non farsi frenare dall'assenza del consenso. E allora giovedì pomeriggio, tra polemiche, tra discussioni, tra lacerazioni anche interne, in particolare al PD, e posizioni invece, opposizioni esplicite, molto forti, mi riferisco alla Lega, ma non solamente, il varo dunque della riforma. E con il varo la conferma di un elemento che riguarda ovviamente l'articolo 18, il no al reintegro per i licenziamenti economici. Insomma, l'agenzia proprio segnalava con varie stellette, sapete, le agenzie hanno stellette a seconda della loro importanza, beh, questo tipo di agenzie ne hanno molto. Il governo non cambia idea sull'articolo 18 in materia di licenziamenti economici, per questa fattispecie non ci sarà la possibilità di reintegro, ma solo quella di indennizzo, così come previsto nella proposta presentata l'altro ieri, dunque martedì, alle parti sociali, così le fonti governative. Allora partiamo da un servizio che ci riepiloga proprio i contenuti della riforma. Arriverà stamattina sul tavolo del Consiglio dei Ministri la riforma del mercato del lavoro. Palazzo Chigi fa sapere che il testo verrà varato con la formula salvo intese, lasciando così aperta la porta a modifiche successive. Non dovrebbe trattarsi di un decreto, l'ipotesi più accreditata è quella di una legge delega. Ieri c'è stato l'ultimo incontro fra governo e parti sociali. L'esecutivo ha preferito non affrontare il nodo dell'articolo 18. Il presidente del Consiglio Monti si è limitato a dire che verranno evitati abusi sui licenziamenti per motivi economici, per i quali resta però esclusa la possibilità del reintegro. Non cambiamo idea, ha spiegato il ministro del Lavoro Fornero. Da parte del governo non c'è alcuna marcia indietro, questo deve essere chiaro. Devo attenermi a quello che ha detto il presidente, che è preoccupazione perché non ci siano abusi e al tempo stesso vigilanza sui comportamenti. Sull'articolo 18 sembra invece ricompattarsi il fronte sindacale a chiedere di cambiare la norma sui licenziamenti economici. Ieri sono stati infatti anche CISL e UGL, mentre la CGL, dopo l'annuncio dello sciopero generale, ha ribadito che l'unico modo per evitare abusi è quello di mantenere il reintegro anche per i lavoratori licenziati senza avere motivazioni economiche. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E dopo il servizio riepilogativo a cura del collega Andrea Viali, sentiamo invece il commento di Guido Gentili, editorialista del Sole 24 Ore. La partita della riforma del lavoro è appena iniziata e, come previsto, si è incagliata sulla riscrittura dell'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, che da quasi 30 anni è oggetto di uno scontro più politico che nel merito dei problemi. Il Premier Monti è deciso ad andare avanti per la sua strada, compresa l'ipotesi dei licenziamenti individuali senza reintegro. Il PD, la CGL e ora anche la CISL puntano i piedi. La Chiesa ha usato parole dure, parlando di modalità infauste. Non serve una riforma dimezzata e c'è bisogno di coesione sociale. Al Parlamento, che dovrà scegliere, spetta con un colpo d'ala individuare la soluzione giusta. E in una partita in cui non sono ammessi errori, deve essere chiaro che dalla sfera di applicazione della riforma non possono uscire gli statali, perché la legge è valida per tutti e un elementare criterio di equità sociale, in questo momento di crisi e forti cambiamenti, non può distinguere tra lavoro pubblico e privato. Stessi sacrifici, stesse tutele. Non è una riforma, ma una controriforma, così tuona il leader della Lega Nord Umberto Bossi a chi gli chiede un commento alla riforma del lavoro. Il senatore sottolinea inoltre che il popolo leghista non vuole che si tocchi l'articolo 18. E dalla CGL invece un pacchetto di 16 ore di sciopero, di cui 8 per uno sciopero generale con manifestazioni territoriali e 8 per le assemblee. E ancora commenti negativi arrivano da Sinistra, Ecologia e Libertà. Nichi Vendola dice: è davvero imbarazzante l'atteggiamento del governo Monti a fronte di un'Italia che sta vivendo una sofferenza, un disagio straordinario di fronte a notizie di suicidi. Questo dice Vendola ancora a metà settimana. L'unica ossessione del governo Monti è quella di recidere il legame con la nostra cultura democratica. Questo naturalmente per quanto riguarda diciamo le posizioni di opposizione, molte naturalmente invece quelle di sostegno, ma insomma siamo entrati nel vivo dell'attualità. Negli spazi del giornale radio ci sono le voci, i commenti, le opinioni di un grande tema che genera naturalmente un grande dibattito. Punto e a capo. In Francia ora ricostruiamo l'assedio del RAID, il reparto delle forze speciali della polizia francese, che ha portato all'uccisione del killer di Tolosa. Sentiamo il servizio. L'assedio era cominciato alle 3 di notte di mercoledì. Per 32 ore le forze speciali francesi hanno accerchiato l'edificio dove si trovava barricato Mohamed Merah, il killer delle stragi di Tolosa e Montauban. Con l'uomo, 24 anni, francese di origini algerine, vicino ad Al-Qaeda, addestratosi in un campo in Afghanistan, era cominciata una lunga ed estenuante trattativa. Più volte l'autore dell'attacco alla scuola ebraica aveva detto di volersi arrendere per poi cambiare versione. Il presidente Sarkozy aveva chiesto che fosse catturato vivo e questo ha rallentato l'operazione. Ieri sera l'ultimo contatto con il terrorista, che aveva detto di voler morire con le armi in braccio. Questa mattina poi l'irruzione delle teste di cuoio nell'appartamento. Merah era chiuso in bagno. Alla vista degli agenti ha cercato di resistere sparando all'impazzata. 3 agenti sono rimasti feriti, uno in modo grave. L'uomo è poi saltato dalla finestra armato ed è stato trovato morto al suolo. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Una Francia sotto shock, questo nel pieno della campagna presidenziale, campagna che si è fermata proprio all'inizio della settimana, quasi congelata in attesa che questa vicenda avesse un esito. Sentiamo su questo punto il servizio di Marco Mussanè. La Francia è sotto shock, non c'era mai stato un attacco a una scuola e la strage di Tolosa riporta alla mente gli attentati contro gli ebrei dei primi anni Ottanta. Tragedie che tutti pensavano sepolte nel passato. I leader politici, dal presidente Nicolas Sarkozy all'avversario socialista François Hollande, hanno sospeso la campagna elettorale per le presidenziali, con una responsabile dimostrazione di sensibilità, di rispetto, di unità nazionale di fronte al dramma. Ma la campagna riprenderà e nulla sarà come prima. Mentre la ricerca del serial killer dello scooter si sta trasformando nella più grande caccia all'uomo della storia francese recente, la politica verrà chiamata ad accantonare i temi economici per riflettere sul malessere di una società che non è riuscita a pacificare, a rendere normale, la convivenza tra comunità etniche, religiose, culturali diverse. Marco Mussanè, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Tolosa. Questo dunque a inizio settimana, poi l'esito l'abbiamo sentito, abbiamo anche detto che per il presidente Sarkozy e per il suo avversario François Hollande è stato un momento di blocco della campagna elettorale. A proposito, sentiamo Sarkozy. È una giornata di tragedia nazionale perché abbiamo assassinato 200 froid. Una giornata di tragedia nazionale perché sono stati uccisi a sangue freddo dei bambini. Questa era dunque l'inizio settimana di Sarkozy, della Francia, ma nel frattempo c'è stato appunto l'epilogo drammatico della vicenda. Il presidente della Repubblica francese ha intanto annunciato che la compagna incinta del caporale Abel Chenouf, uno dei due paracadutisti uccisi a Montauban da Mohamed Merah, ha ottenuto l'autorizzazione presidenziale a contrarre un matrimonio postumo. Questa è la decisione presa in queste ore dal presidente francese, che intanto è rientrato pienamente nella campagna elettorale. Vincere le elezioni perché il socialista François Hollande non vale niente. Allora, all'indomani della morte di Mohamed Merah, Le Monde pubblica le confidenze fatte dal presidente e candidato Nicolas Sarkozy a Philippe Ridel, il giornalista di Le Monde che seguì la campagna elettorale nel 2007 e che oggi è corrispondente da Roma. Insomma, la campagna è ripresa pienamente e la battaglia tra i due candidati è di nuovo accesa. Punto e a capo. Se avessi un figlio sarebbe come Trayvon, così il presidente americano Barack Obama si riferisce alla sparatoria in Florida che ha causato la morte di un teenager di colore. Obama chiede un'indagine completa sull'accaduto, dice andremo fino in fondo. Dunque, con questa vicenda, questa nota appunto di agenzia di ieri mattina, andiamo negli Stati Uniti, dove intanto fino in fondo è ormai ufficialmente destinato ad andare Mitt Romney, dunque lo sfidante del presidente degli Stati Uniti Barack Obama sul fronte repubblicano, è dunque ormai lui senza possibili dubbi. Sentiamo il servizio di Mario Platero. Thank you Illinois, what a night. Wow. Avete sentito Mitt Romney, raggiante, che rivendica questa vittoria, rivendica il diritto di confrontarsi ormai direttamente con Barack Obama, ritiene che un confronto continuato all'interno del Partito Repubblicano sia una perdita di tempo, sia un esercizio che andrà a rafforzare soltanto il concorrente, l'avversario, il presidente che vogliono scalzare dalla Casa Bianca, cioè appunto Barack Obama. La sua vittoria, devo dire, è stata piuttosto netta, perché stiamo parlando di un 46,6% per Romney, 35,1% per Santorum. Ecco, però la cosa che mi ha colpito di più è che Gingrich è arrivato quarto col 7,9% contro il 9,3% di Ron Paul. Dunque la domanda ritorna: Gingrich, perché non te ne vai? Beh, dovrebbe essere a questo punto arrivato il momento. Secondo me sarà questione di giorni. È possibile che Gingrich voglia resistere e voglia mantenere la promessa di arrivare fino in fondo per poter accumulare quanti più delegati possibili e dunque fare bella figura poi alla convenzione di Tampa in Florida. Però a questo punto si tratterebbe solo di una manifestazione di egoismo. È ovvio che Santorum potrebbe fare meglio se non avesse la concorrenza di Gingrich nel voto conservatore. Questo si dice, in realtà non ne sono così convinto, perché Santorum e Gingrich insieme hanno fatto il 41-42%, dunque Romney avrebbe vinto lo stesso anche se tutti i voti di Gingrich fossero andati a Santorum, ma le statistiche ci dicono che comunque non sarebbe così. Se Gingrich si ritirasse, il suo voto andrebbe a spezzarsi un po' a Romney e un po' a Santorum. Dagli Stati Uniti alla Siria, dove continua la repressione dell'opposizione, una repressione che assume ormai da settimane i colori, i toni, le armi, gli strumenti della guerra alla popolazione. Ancora ieri, venerdì, giornata di manifestazione, decine di migliaia di siriani hanno manifestato in diverse città contro il regime di Bashar al-Assad, mentre le truppe fedeli al presidente hanno continuato i bombardamenti contro i ribelli in diverse zone del paese. A Damasco, la capitale, e nella periferia della capitale stessa, i militari hanno disperso i manifestanti con la forza, aprendo il fuoco, ferendo diverse persone, così secondo quanto è stato riferito dall'Osservatorio Siriano dei Diritti Umani. E adesso invece torniamo sul continente americano, ma dagli Stati Uniti al Sud America, dove è avvenuto sempre ieri con successo il lancio dal poligono francese di Kourou del terzo ATV, la navetta automatizzata per il rifornimento della Stazione Spaziale Internazionale, costruita dall'Agenzia Spaziale Europea, una navetta battezzata in onore del fisico italiano Edoardo Amaldi. Noi in settimana abbiamo sentito il program manager per l'ESA di ATV, Massimo Cislaghi, sentiamo un passaggio della sua intervista. L'ATV, quindi Automatic Transport Vehicle in inglese, veicolo di trasporto automatico, è uno dei capisaldi del supporto logistico della Stazione Spaziale Internazionale. È il più grande veicolo e il più pesante e il più complesso veicolo mai sviluppato e operato dall'Agenzia Spaziale Europea. Ed è un veicolo che alla sua terza missione continua ad assicurare un supporto logistico essenziale alla Stazione Spaziale Internazionale, trasportandovi materiale, cargo pressurizzato, pezzi di ricambio, esperimenti, cibo e oggetti personali per gli astronauti, ma anche acqua, aria, ossigeno. Grosso modo un terzo della massa di lancio è costituita da carico utile. E ne potrebbe fare a meno? Assolutamente no. Soprattutto in un periodo, quello attuale, nel quale lo shuttle americano ha purtroppo terminato la sua vita operativa, l'ATV europeo insieme all'HTV giapponese e al solido, classico, indistruttibile Progress russo sono i tre veicoli che assicurano appunto il supporto logistico della stazione, ma dei tre veicoli l'ATV è quello con maggiore capacità di trasporto. Dal momento del lancio, quanto impiega a raggiungere la stazione, che orbita intorno al nostro pianeta a circa 400 km di distanza? Nel caso specifico dell'ATV 3, l'inseguimento dura circa 6 giorni. Punto e a capo. Buon viaggio dunque alla TV, ne riparliamo tra qualche giorno appunto per l'aggancio in orbita di questa importante navicella europea. Noi torniamo sulla Terra, molto sulla Terra, con i servizi che la nostra Valentina Furlanetto realizza ormai da mesi sul mondo dell'evasione fiscale. Allora anche questa settimana naturalmente molti gli spunti, sentiamo una puntata del suo percorso. Da 2 a 3.000 euro e spesso in nero. Non accade nei sottoscala dei mercati rionali, ma in blasonati tribunali, quello di Milano per esempio, come quello di Roma, per le perizie ordinate dal tribunale stesso in relazione all'affidamento dei figli in caso di separazione fra coniugi. È proprio così. I periti, naturalmente quelli di parte, vengono pagati spesso in nero, così come accade per gli avvocati. In questi casi, i controlli portati avanti dall'Agenzia delle Entrate in tutta Italia nell'ultimo anno e mezzo hanno accertato maggiori imposte evase dalla categoria dei legali per oltre 125 milioni di euro. Come fanno? Non emettono fatture, utilizzano praticanti in nero, gonfiano i costi. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Richiesta da anni da parte della Corte dei Conti per 3 milioni e mezzo di euro all'architetto spagnolo Santiago Calatrava e a 6 tecnici del Comune di Venezia per ritardi, costi aggiuntivi, errori commessi nella realizzazione del quarto ponte sul Canal Grande. Ospite a Focus Economia di Sebastiano Barisoni, alla domanda se volesse essere indagato, Cacciari risponde così. Cioè lei vorrebbe essere indagato? Esprimo a questi tecnici non solo solidarietà, simpatia, stima, perché si tratta di persone di altissimo profilo professionale a partire da Calatrava. E quindi ci terrei appunto ad avere il tempo necessario per spiegare alla Corte dei Conti di cosa si tratta. Quindi lei vorrebbe essere indagato? Diciamo. Ah, non sarei felicissimo, assolutamente nessun problema. È mio costume assumermi tutte le responsabilità anche quando non ce le ho, figuri lei. Dico una cosa, però almeno lo scivolo per i diversamente abili, per le persone con difficoltà, Calatrava poteva farlo all'inizio. Sì, no. Sì, lo so, lì c'è stata. Allora, noi abbiamo ritenevamo, ancora prima del bando, io stesso avevo seguito in quella fase, era complicato realizzare, perché il ponte di Calatrava ha una certa linea, una certa struttura, eccetera, eccetera. Allora, era complicato realizzare qualcosa che per i diversamente abili, per rendere utilizzabile il ponte per i diversamente abili. Lì sotto il ponte c'è una fermata del vaporino che giunge dall'altra parte in un minuto. Sembrava logico non spendere altri 2-3 milioni per fare questa struttura, visto che lì sotto c'è un vaporino. E avevamo detto, il vaporino per i diversamente abili che parte sotto il ponte e arriva dall'altra parte, cioè alla stazione, è gratuito per tutti i diversamente abili. Ora, insomma, struttura per i diversamente abili si sta realizzando. Sì, lo so. Sì, c'è gente. Ed è un'assurdità totale, mi permetta di dirlo, un'assurdità totale, perché c'è un servizio lì sotto che praticamente funziona tutto il giorno, perché ogni ora oltre mezzanotte alle 6 di mattina. Vabbè. Punto e a capo. Un ponte nato davvero controverso, quello di Calatrava a Venezia. Allora avete sentito Cacciari, adesso però voltiamo pagina. Questa settimana è stata anche la settimana della festa del papà, in realtà non proprio tra le feste più celebrate nel nostro paese, forse ce ne sono anche un po' troppo, ma invece sicuramente un tema importante, quello affrontato da Nicoletta Carbone in quell'occasione. All'inizio della settimana si è parlato del rapporto padre e figlio quando le cose sono più complicate del normale. Franco Antonello, padre di Andrea, ragazzo autistico, Franco e Andrea hanno fatto un viaggio molto speciale che sarà raccontato nel libro di Fulvio Ervas, Se ti abbraccio, non avere paura. Al microfono di Nicoletta Carbone racconta come è nata l'idea di questo viaggio. Allora Franco, due grandi viaggi nella tua vita. Il primo, il viaggio nella paternità di un figlio che ha la diagnosi di autismo. Un viaggio che immagino sia molto complesso. È un viaggio interessante, sì, decisamente. Quando arriva, io ho due figli, il primo Andrea che è appunto sindrome autistica e un altro ragazzo che invece è un campione del mondo, che ne combina di tutti i colori, che si chiama Alberto e che saluto perché anche lui la sua importanza al pari di Andrea. Certo. Quando arriva Andrea comunque o quando arriva comunque nelle famiglie un ragazzo con una disabilità, è chiaro che arriva un uragano che può spazzare via l'intera famiglia, quindi bisogna avere la forza di affrontare questa cosa ed è un'avventura decisamente unica, sì. E c'è un secondo viaggio che è davvero unico ed è quello che tu hai fatto in moto con Andrea. Ce lo anticipi? Sì, questo viaggio, tra l'altro, scusami Franco, ti ho interrotto, sarà raccontato in un libro? Certo, infatti viene raccontato in un libro edito da Marcos y Marcos, che è una casa editrice di una professionalità unica, dove io non ho mai visto lavorare con una professionalità simile, e di un racconto di un favoloso Fulvio Erbas che ha romanzato praticamente il viaggio di me e Andrea. Viaggio che è partito da Miami e dopo 38.000 chilometri, 20 paesi e un sacco di culture, popoli, profumi, eccetera, ci siamo fermati in Sud America e si è rientrati dopo 4 mesi, insomma. Senti, Franco, di questo tu hai già guadagnato una copertina su Panorama, sì, si parla molto di questo viaggio, ma tu vuoi che questo viaggio ti ha dato modo di far accendere i riflettori sulle storie di famiglie che sicuramente non possono magari permetterci di salire in sella ad una moto e fare tutti questi chilometri, ma che ogni giorno fanno un viaggio insieme magari al loro figlio, alla loro figlia, in una storia difficile. E quindi, allora, io ho avuto l'occasione, la possibilità soprattutto di fare questa cosa, diciamo, fantastica, cioè un viaggio incredibile, tra l'altro con Andrea autistico, cioè non possono, normalmente non entrano in contatto con le persone, non amano i cambiamenti, io ho fatto tutto il contrario, cioè l'ho portato a spasso per il mondo, gli ho fatto conoscere il mondo intero. È stata quasi anche una provocazione, cioè un qualcosa per suscitare appunto interesse. Adesso che questo interesse c'è, appunto la copertina di Panorama è stata una cosa che ci ha aperto infinite strade, anche il piacere di essere qui con voi adesso. E però io vorrei usare questa visibilità, questa possibilità di comunicare che adesso abbiamo, non tanto per dire quanto bello è stato questo viaggio, che poi viene raccontato tutto nel libro con tutti i particolari, gli incontri con gli sciamani, con gli indiani, con gli indios, insomma mille avventure che abbiamo passato, e tocchiamo anche argomenti molto importanti nel libro, però sempre con molta ironia, senza piangere. Però appunto io volevo che questa mia comunicazione, posso adesso qui con voi, e poi ci saranno tante altre occasioni dove ci stanno invitando, vorrei proprio portare l'attenzione su quei ragazzi che hanno disabilità magari più importanti di quelle di Andrea, o su famiglie che hanno meno possibilità di quello che ho io, perché io vedo situazioni veramente, veramente disastrose di queste famiglie che non hanno, non possono avere la forza che ho io nel curare, nel seguire i propri figli, e io voglio portare l'attenzione appunto su questa cosa, cioè dare voce alle famiglie che sono veramente in difficoltà, o a quei ragazzi che un viaggio come quello di Andrea se lo possono solo sognare. Tutto questo naturalmente lo potete sentire, risentire attraverso radio24.it, in questo caso naturalmente la trasmissione è Essere e Benessere, ma è un discorso che vale per tutte le trasmissioni, per tutto quanto viene prodotto, raccontato attraverso la nostra radio. Punto e a capo. Ultima parte del nostro appuntamento settimanale con Punto e a Capo, parliamo di Londra, Londra 2012, questa settimana è stata tracciata la mappa del viaggio della torcia olimpica, sentiamo il servizio di Carlo Genta. Dalla fine della Terra, un posto che si chiama Land's End, il punto più a ovest della Gran Bretagna, fino al cuore del braciere olimpico di Londra. Ci saranno 70 giorni di marcia a partire dal 19 maggio e 8.000 miglia da percorrere attraverso luoghi simbolo come Stonehenge, l'Irlanda del Nord, Edimburgo, Dublino, così come attraverso strade di campagna qualunque. Ci saranno 8.000 braccia a portarla, 700 quelle di celebrità varie, 7.300 di volontari selezionati per il contributo che hanno dato alle loro comunità. Ci saranno veterani di guerra, bambini e anche un ultracentenario, la cittadina londinese Diana Gold, che compierà 100 anni il 23 di maggio. Per ciascuno 300 metri di gloria. Il 21 luglio il fuoco arriverà a Londra. Il 27 il braciere sarà acceso. Carlo Genta, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E noi ci saremo a raccontarvelo, come vi abbiamo raccontato questa settimana le semifinali di Coppa Italia con Juventus e Napoli qualificate alla finalissima di Roma del 20 maggio. Oggi invece torna il campionato, la 29esima giornata, si preannuncia cruciale nella volata scudetto si apre alle 18 con Milan-Roma, anticipo disposto per permettere ai rossoneri di preparare al meglio il quarto di finale d'andata di Champions mercoledì con il Barcellona, e domani ore 20:45 fari puntati sul derby d'Italia Juventus-Inter. Ma proprio nella settimana in cui impazza il dibattito sull'articolo 18, anche il calcio affronta un caso particolare, quello dell'allenatore del Cagliari Davide Ballardini. Ci racconta tutto Dario Ricci nella sua controcopertina. Non esonerato, ma licenziato per giusta causa. Così il Cagliari del presidente Cellino si è liberato dell'allenatore Davide Ballardini, allontanato dalla guida dei Sardi a inizio marzo e sostituito proprio da quel Ficcadenti di cui lo stesso Ballardini aveva preso il posto a novembre. Certo, il presidente Cellino deve aver pensato che tra licenziamento per giusta causa ed esonero c'è una bella differenza, e tutta a favore della società, che nel primo caso risparmierebbe i quasi 2 milioni di ingaggio che ancora aspettano a Ballardini. Ma nei giorni in cui si discute la riforma del lavoro e l'Italia è spaccata dal dibattito sull'articolo 18, il licenziamento per giusta causa di un allenatore professionista di calcio suona grottesco. Di lavoro a tempo determinato si tratta, infatti, per di più regolato dalla legge 91, che inquadra e regola appunto i rapporti di lavoro per gli sportivi professionisti. E poi è difficile individuare la giusta causa stessa. L'allenatore prepara la squadra e quello è il suo lavoro, che non presuppone l'obbligo di vittoria. Quella che invece a questo punto Ballardini quasi certamente otterrà impugnando il provvedimento in tribunale. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Punto e a capo. E naturalmente anche questa settimana abbiamo parlato di musica. Marta Cagnola, come sempre, ci porta i suoi contributi, il lavoro della settimana. Martedì ci ha segnalato La Grande Madre, il nuovo CD di Pino Daniele, il primo autoprodotto, senza dunque affidarsi a una casa discografica. Nel momento in cui metti mano a delle cose e vuoi realizzare dei prodotti come questo, insomma, è impegnativo. Però in realtà sono contento di averlo fatto, nel senso che volevo dare proprio questo tipo di immagine. Anche noi come team di lavoro, che siamo tante persone, non è un lavoro impegnativo, serio, dove chi compra il disco e spende i soldi ha in mano qualcosa di sostanzioso. Ti sei detto un po' smarrito rispetto ai tempi attuali. Sì, molti si avviliscono e si ammutoliscono, nel senso che veramente a volte ti cadono le braccia e quindi perdi un po' l'entusiasmo e perdi anche la voglia di fare. Noi invece al contrario ci siamo rimboccate le maniche e abbiamo detto no, andiamo dritti per la nostra strada e chi vivrà vedrà. Hai parlato anche dell'Italia nella conferenza stampa. L'Italia è un paese che deve investire nella cultura, sembra invece che la cultura sia noia. Hai un ruolo importante, come tutte le persone fanno cultura. Io credo che queste cose sono voci che vengono messe in giro appunto per zittire gli artisti. Secondo me va investito sulla cultura, perché noi siamo un paese che deve esportare cultura. Cioè, nel senso che l'Italia è un paese d'arte. Se tu gli levi la cultura, gli levi tutto. Cioè, ma anche il turismo, anche bisogna dare la possibilità ai giovani di esprimersi. Questo non è solo nel campo imprenditoriale delle attività commerciali, ma deve essere anche nel campo artistico, soprattutto nel campo artistico. Quindi favorire i momenti di cultura e di insieme. Ancora musica in conclusione. Questa settimana segnaliamo anche l'uscita del Senso di Alex, tributo ad Alex Baroni, oltre a un duetto di Alex Baroni con Renato Zero. A reinterpretare le sue canzoni ci sono, da Baglioni a Giorgia, da Marco Mengoni a Noemi. Il produttore Marco Rinalduzzi al microfono di Marta Cagnola. L'idea è molto semplice come andare. In questi 10 anni dalla morte di Alex, io mi sono reso conto che Alex era un po' sottovalutato nella memoria collettiva musicale, diciamo, degli italiani. Allora mi sono detto che bisognava fare qualcosa di importante. Allora mi sono venuto in mente tante idee, il solito concerto, le solite cose, tra tutto questo. Secondo me la maniera migliore per fare un tributo ad un artista è che altri artisti lo facciano. E allora mi sono un po' messo in moto e fortunatamente, essendo un, tra virgolette, vecchio del mestiere, conoscendo un po' tantissimi artisti e sapendo quali erano magari un po' più amici o estimatori di Alex, ho cominciato a tastare il terreno e ho visto che si poteva fare. Poi, strada facendo, ho visto che si allargava sempre più, quando ci sono state le adesioni importanti, cioè quando ci sono Baglioni, Renato Zero e Giorgia, insomma così, poi insomma la strada si è spianata e è venuto fuori un disco con un cast, devo dire, invidiabile, insomma, che non è, tutto sommato, non è facile mettere insieme. Sono molto contento perché le canzoni hanno preso un'altra vita, e una vita diversa, ed è anche una maniera per omaggiare Alex anche come compositore, perché era compositore di tutti i testi e di una parte delle canzoni. Siamo alla conclusione, non mi resta che ringraziare Carmelo Lauricella in regia, salutarvi, ricordarvi l'appuntamento con l'Altra Europa tra pochi minuti. Punto e a capo torna come sempre sabato prossimo intorno alle 9:10. Buon fine settimana a tutti voi.